Lo tengo in mano. Allora, siamo qua per il quarto incontro dei cicli che abbiamo fatto con il coordinamento violenza non violenza. Questo quarto incontro ha come tema l'auto-organizzazione. Quindi volevo un attimo fare, diciamo, una specie di cappello, diciamo, a quello che è, secondo noi, insomma, dovrebbe essere l'auto-organizzazione e l'autonomia. E poi passare la parola a Nicoletta, che ci farà il laboratorio post-vittimista, perché pensiamo appunto che queste due tematiche siano molto strettamente legate. L'autonomia e l'auto-organizzazione sono, almeno per noi, la presa di coscienza direttamente, presa in carico di quello che è la realizzazione anche dei nostri desideri, delle nostre lotte, dalla consapevolezza anche che questo si possa fare attraverso appunto l'auto-organizzazione. Sicuramente comprende il rifiuto della delega, perché nel momento in cui noi siamo autonome riusciamo comunque a costruire e organizzarci una società differente da quella che il neoliberismo in realtà ci ha imposto. Perché rifiuto della delega? Rifiuto della delega visto dal punto di vista femminista, in quanto in realtà le donne l'hanno sempre poi subita questa infantilizzazione, perché la delega è renderci infantili, è la presa in carico appunto contro il sistema che in realtà ci rende bambini e ci vuole dire cosa sia meglio per noi, o che addirittura, insomma, nel caso dello Stato, che è lui che si occupa di noi e che fa il nostro bene, quindi tutto ciò che fa è in funzione di questo. E appunto questo è perché appunto la delega alle istituzioni e diventa anche molto spesso, o è diventato molto spesso, la mancanza di completa autonomia da parte anche di quello che sono le battaglie come quella femminista, che molto, molto spesso è diventata una battaglia paraistituzionale, quindi ha delegato completamente a quello che è l'associazionismo e quindi di conseguenza al neoliberismo la lotta femminista, dandogli praticamente le chiavi in mano. L'auto-organizzazione e quindi di conseguenza l'autonomia e l'autodeterminazione sono anche il riconoscere chi è il nemico, e riconoscere chi è il nemico ci permette ovviamente di mettere a fuoco e di costruire quelli che sono poi gli strumenti che ci servono per distruggere e di creare delle crepe all'interno del neoliberismo. Questo perché appunto si ricollega al laboratorio post-vittimista che ci farà Nicoletta, perché in realtà nel momento in cui noi accettiamo la delega, in qualche modo in realtà accettiamo anche il discorso che fa il sistema neoliberista, che ci rende vittime, quindi questa narrazione tossica in cui noi siamo sempre vittime di qualcosa. Ovviamente, essendo donne, questa posizione, questo ruolo l'abbiamo subito per secoli, però questa cosa ormai si è allargata a macchia d'olio su tutto l'esistente, su ogni parte della nostra vita, e quindi siamo vittime sempre di qualcosa, che può essere dal macro argomento come il terrorismo fino ad arrivare, no, alla piccola cavolata, no, quotidiana. Perché quindi bisogna non essere più vittime? Cosa c'è di femminista nel non essere più vittime? Di rinnegare la delega? Di smettere di accettare... Oddio! Di smettere di accettare il discorso che ci viene propinato, ovviamente, e che ormai è passato, che è passato per la il fatto di essere legalitari, che è passato per la stigmatizzazione della nostra rabbia e ovviamente della conseguente, no, poi dimostrazione di questa rabbia. E da qui proprio il motivo per cui fa parte di questo ciclo di incontri, perché la nostra rabbia ovviamente si manifesta in maniera violenta molto spesso, e la nostra violenza viene stigmatizzata come appunto fuori viene definita illegale, La violenza che esercita ovviamente il sistema neoliberista invece viene passata come appunto il padre, no? È un po' come la solita solfa per cui c'è il padre, no? Che ti dà lo scappellotto ma lo fa per il tuo bene. Il sistema neoliberista funziona così, quindi in realtà poi rientra in questo quello che può essere appunto il costruire un percorso di lotta che sia auto-organizzato. E ci possono essere vari strumenti. Mi ricollego a un pezzo cioè che abbiamo scritto, che scrisse una compagna durante l'incontro del 2012, il personale è politico, il sociale è privato, che appunto lei mise dei punti per dire appunto che l'auto-organizzazione è il riconoscimento appunto dei settori subordinati in un'organizzazione sociale di oppressione e di sfruttamento, perché per riuscire a costruire quello che è l'autorganizzazione, ovviamente bisogna, oltre che riconoscere il nemico, anche riconoscersi in quanto genere, quindi prendere coscienza di genere e riconoscersi in quanto classe. E lei sottolineava questi punti: l'orizzontalità dei processi decisionali, che non ha nulla a che fare con la teoria del consenso, con le decisioni a maggioranza, con la cosiddetta democrazia dal basso, che fa sempre riferimento ovviamente alle autorità superiori. Per esempio lo Stato in questo caso. Il lavoro politico, che appunto è una presa di coscienza di genere, e poi la messa in comune delle esperienze, delle sperimentazioni, così come la condivisione, crea realmente una crescita collettiva facendo fronte alla sproporzione che la società capitalista c'è tra chi può accedere a un'istruzione o alla cultura. Questo perché è importante, soprattutto quello di condivisione dei saperi, condivisione comunque di quello che noi possiamo essere, perché ovviamente in questo momento ci costringono ad essere altro e di controbattere rispetto a quello che passa, perché ovviamente la cultura molto spesso la sentiamo tirata in ballo, soprattutto sul femminismo, no? La cultura patriarcale è quella che ci opprime. È un po' riduttivo dire questo, però ovviamente il capitale e il neoliberismo si sono appropriati ovviamente dei mezzi di comunicazione, del linguaggio e di conseguenza ovviamente quello che poi viene diciamo passato nell'istituzione scuola o nel lavoro o in qualsiasi contesto non è più quella che era una volta la condivisione dei saperi che riusciva comunque in qualche modo in alcuni luoghi liberati e auto-organizzati a passare, ma si ferma prima, quindi cioè, si è interrotta questa comunicazione. E ovviamente l'essere anti-istituzionali, perché le istituzioni rappresentano e sono portatrici ovviamente dell'oppressione e del dominio che esercitano contro di noi. E io passerei la parola a Nick. Va bene, grazie. Grazie intanto di questa introduzione, così mi hai risolto di dover chiarire una serie di questioni. Direi che il nodo appunto è quello di passare dall'essere vittime a essere soggetti, che sembra banale detto così, ma in realtà è una delle cose più faticose in questo momento per noi, proprio perché rispetto alla violenza maschile contro le donne, c'è un proliferare di discorsi che ci vittimizzano, che ci spingono, vogliono spingerci a delegare allo Stato, alle forze dell'ordine, ai centri antiviolenza, alle matriarche istituzionali la soluzione di questo problema. E vediamo peraltro che mentre sono in atto questi meccanismi, il problema si fa sempre più forte e si fa sentire, insomma, si moltiplicano i casi di violenza contro le donne. Non parliamo solo del femminicidio, ma parliamo proprio anche della violenza nel quotidiano. Il femminicidio è un po' la punta dell'iceberg, no? Però appunto anche come il mondo del lavoro gestisce la presenza femminile, che è sempre più indebolita dal punto di vista del potere contrattuale, del potere di negoziazione. Ecco, questi discorsi tendono tutti a vittimizzarci. Allora, io da un po' di anni porto in giro questo laboratorio post-vittimista perché vorrei provare a cambiare l'immaginario. Ora, non è un'impresa da poco. Però credo che insistendo su questo punto si riesca in qualche modo a dare degli strumenti anche per muoversi ciascuna nella propria quotidianità, per guardare le cose da un'altra prospettiva e quindi provare a trovare altre soluzioni. Entrando nel cuore del laboratorio, io partirei dalla definizione che Adrienne Rich dava negli anni 70 di patriarcato, perché è bene appunto mettere a fuoco questa categoria che viene spesso nominata ma non si capisce. Come giustamente diceva prima Noemi, sì, combattere la cultura patriarcale, però capire che il patriarcato si declina all'interno del neoliberismo così come si è declinato nelle culture ancestrali, cioè sono in questo per esempio molto brave queste donne, vi consiglio di andare a vedere in internet queste donne boliviane in particolare di femminismo comunitario, che spiegano molto bene come il patriarcato coloniale, quindi il patriarcato del capitalismo nascente, si sia sostanzialmente intrecciato col patriarcato ancestrale che c'era nel nuovo mondo, nell'odierna America Latina, America Centrale, America Latina, per come dire, raddoppiare la violenza della sottomissione delle donne, costruendo quindi delle asimmetrie. Per cui il patriarcato c'è, esiste, ha un momento di nascita e speriamo che presto abbia anche un momento di morte, ma si declina, non è un'entità astratta. E questo è assolutamente importante averlo sempre chiaro. Adrienne Rich nel libro Nato di donna, che appunto è del 76, scriveva: patriarcato è il potere dei padri, un sistema socio-familiare, ideologico, politico, in cui gli uomini con la forza, con la pressione diretta o attraverso riti, tradizioni, leggi, linguaggio, abitudini, etichette, educazione, divisione del lavoro, determinano quale ruolo compete alle donne, in cui la femmina è ovunque sottoposta al maschio. Ciò non implica necessariamente che non ci siano donne in posizione di potere o che tutte le donne in una data cultura non abbiano certi poteri. Allora, perché è importante questo passaggio? Perché Adrienne Rich ci fa vedere come quello di patriarcato, cioè come il patriarcato agisca con degli strumenti coercitivi e violenti, ma anche con degli altri strumenti, appunto addirittura l'etichetta, no? Quindi come dire le modalità di relazione ben educate, ma anche il linguaggio e le abitudini. Ed è su questo in particolare che io mi voglio soffermare, su questo laboratorio, perché questo laboratorio sarà un percorso per immagini e le immagini sono un linguaggio, anzi le immagini si imprimono dentro la nostra testa molto di più di quanto non ci si imprimano le parole. Queste immagini sono dei veri e propri documenti e allo stesso modo l'abitudine, perché l'abitudine ad un certo tipo di immagine fa sì che quell'immagine alla fine lavori per noi, ci costruisca una percezione distorta della realtà. E allora ecco, qual è nel caso di questo percorso che faremo insieme la visione distorta? Sono proprio i dispositivi vittimizzanti che noi cerchiamo di portare a galla. Innanzitutto questi dispositivi vittimizzanti vediamo che servono a legittimare una rappresentazione assai vecchia, che è la contrapposizione donna debole uomo forte. Come in ogni forma di colonialismo, anche il colonialismo patriarcale agito sulle donne ha creato l'alterità per definire se stesso, cioè se io definisco la donna come debole, di conseguenza definisco l'uomo come forte, così come nel colonialismo definire come selvaggio, sottosviluppato, bisognoso di civilizzazione l'altro faceva sì che l'europeo di conseguenza si definisse al suo opposto, no? Questi sono dispositivi, insomma, di cui nella storia abbiamo tantissimi esempi. Quindi io vi illustrerò una sorta di galleria di selezione di quelle che sono le immagini più ricorrenti, non solo negli articoli dei giornali online che parlano di violenza contro le donne, ma addirittura nelle campagne antiviolenza, no? Quindi cioè campagne antiviolenza che dovrebbero dar forza alle donne, in realtà tendono a vittimizzarle, come vedremo, nella stragrande maggioranza dei casi. E non ci deve sorprendere questo, perché comunque anche le campagne antiviolenza mirano a che la donna deleghi in qualche modo al centro antiviolenza la risoluzione del proprio problema. E quindi ecco che rappresentarci come vittime fa sì che nel voler stimolare la reazione di una donna, questa reazione viene considerata il riferirsi al centro antiviolenza, fare denuncia, quindi a tutto un apparato, diciamo, di risoluzione di questo problema della violenza, che però è in realtà un apparato di controllo. Per esempio l'obbligo di denuncia, io la trovo una cosa terrificante. E per far capire come siano impregnate le nostre teste di questi dispositivi, l'altra sera discutevo con un gruppo costituito da poco, un collettivo femminista costituito da poco dalle mie parti in Toscana, perché mi chiedevano uno stage di autodifesa. Io tengo stage di autodifesa perché, appunto, essendo post vittimista, ovviamente. Una di queste donne raccontava di una situazione violenta a cui aveva assistito per strada, come aveva cercato di intervenire, e un'altra donna che ha lavorato in un centro antiviolenza diceva: ah no, io non sarei intervenuta usando violenza contro il tipo, io avrei subito chiamato le forze dell'ordine. E io ho detto: ma vuoi fare il corso di autodifesa perché, se tu chiameresti subito le forze dell'ordine, no? E poi ho detto: cioè, ci sono altre, voglio dire, altre vie, prenderci in mano le nostre vite. E lei diceva: no, perché è importante che le donne denuncino, quindi io in una situazione così chiamo le forze dell'ordine, e se la donna non vuole denunciare il tipo, lo denuncio io al posto suo. E io ho detto: vabbè, se non è violenza questa, cioè addirittura prevarichi questa donna, no? E lei però questa, come dire, era molto, da poi vabbè, le ho creato qualche contraddizione ovviamente ragionandoci, ma lei veniva proprio da questo percorso dei centri antiviolenza, per cui la strada è quella, cioè non intervieni tu direttamente ad aiutare una donna, anche che poi a volte è questione di pochi secondi, e sappiamo che anche volendo delegare alla polizia magari ci mette 2 ore ad arrivare, una è già stata fatta fettina, inscatolata o messa in freezer, non è che... No? Cioè, piuttosto che intervenire direttamente, invece delego e però poi prevarico la donna. Io l'ho trovata una cosa terrificante, come non vuoi usare violenza contro l'uomo che sta massacrando con la testa contro un cancello una donna, però usi violenza contro di lei, no? Facendo la denuncia al posto suo. Ecco, questo tanto per dirvi. Vedremo anche in queste immagini come una caratteristica tipica del modo di rappresentare le donne, che è quella della pubblicità, venga utilizzata anche nella rappresentazione della violenza. Cioè, la donna non è mai un corpo intero, non è un essere senziente, non è un corpo intero. La donna è un corpo fatto a pezzi, e infatti vedremo la serie mani, bocca, eccetera. E anche quando è rappresentato l'intero corpo, il suo volto è nascosto. Nessuna di queste immagini rappresenta la capacità di reagire delle donne, quindi nessuna di queste immagini trasmette forza. Poi ve ne farò vedere qualcuna che per fortuna invece forza la trasmette. Vi premetto che sarà un bombardamento di immagini, ma è una scelta questa, ed è una scelta, come dire, molto meditata, perché se leggiamo un articolo su un giornale online e vediamo una di queste immagini, la nostra testa l'assorbe in qualche modo, il nostro immaginario l'assorbe e non ce ne rendiamo conto. Farne vedere tante di seguito serve proprio a creare questo shock e a far capire che tipo di meccanismo stia dietro. Quindi sostanzialmente questo bombardamento di immagini è finalizzato a rovesciare questo effetto di naturalizzazione che la singola immagine invece può indurre nella maggior parte dei casi. Va bene, incomincerei. Mi ci metto qua io, così tu mi apri solo. Laboratorio post-victimist. Vittimizzazione. Mani. Ok. Tocchi lo schermo davanti. Allora, vedete che queste mani sono sempre mani, ci vedete, sì? Sempre mani che indicano debolezza, non sono mani che fermano con lo sguardo dritto negli occhi, ma il volto è sempre girato o nascosto. E soprattutto non sono, si potrebbe anche fare un'immagine di una mano, o un'immagine di una mano che ferma, quindi con lo sguardo dritto, oppure una bella mano insanguinata perché ha tirato un cartone all'aggressore, no? Invece no, sono mani assolutamente che trasmettono debolezza. Allo stesso modo, scusate, nel passare da una all'altra ci metterò un pochino, ma ce la farò. La bocca, vabbè, queste le guardiamo singolarmente. Allora, la bocca non c'è. Non c'è una bocca per urlare, ma non per urlare in senso di debolezza, ma per reagire, per tirare fuori quella voce, non come noi siamo state educate, respirando fino a qua e quindi tirando fuori la voce da qui, ma tirare fuori la voce dalla pancia e quindi piantandoci bene a terra e esprimendo determinazione. Questa è una campagna antiviolenza, per esempio una cosa fatta al Teatro Litta. Stai zitta cretina, al Teatro Litta di Milano. Stai zitta cretina, quindi che vedete che tipo di messaggio, ma la bocca addirittura cucita. Tra l'altro questa cosa della bocca cucita, vi dico, a me ha sconvolta in modo particolare, perché il cucirsi la bocca, per esempio, è una pratica molto diffusa nei CIE. Quanti immigrati reclusi nei CIE si sono cuciti la bocca come forma di protesta, ma nel cucirsi la bocca nel frattempo davano fuoco a mezzo CIE, cioè c'era un, no? Così come ho in mente la danza degli aghi di Panizzari, cioè su come anche in carcere ci sia questa pratica, ma è una pratica dove il corpo esprime quello che l'istituzione totale in cui è la persona reclusa induce, ed è una cosa completamente diversa dal messaggio che manda questa immagine. E qui ancora basta con la violenza, di nuovo, quindi un telefono antiviolenza dove la donna ha la mano sulla bocca. Qui addirittura la bocca insanguinata, perché poi si va sempre più nello splatter. E quindi vediamo che, come le mani, la bocca è assolutamente incapace di alcuna reazione e si arriva allo splatter di sangue e lividi. Allora, questo, se vi ricordate, alcuni anni fa c'era stato per il 25 novembre l'invito a mettere lenzuola insanguinate fuori dalle finestre, no? Che per chi ha una certa età ricorda la prova di verginità che si usava una volta, non solo nel sud Italia, cioè dopo la prima notte di nozze si metteva fuori il lenzuolo insanguinato a dimostrare che la donna era vergine. Si narra di poveri galli sgozzati per insanguinare queste lenzuola, Però è terrificante che tu, in risposta alla violenza maschile contro le donne, il 25 novembre metta fuori un lenzuolo insanguinato. Perlomeno io lo trovo veramente terribile. E qui ho sbattuto contro la porta, che è una delle tipiche scuse, no, che le donne che finiscono al pronto soccorso riportano. Questo, vabbè, qui incomincia la dimensione un po' fashion, poi vedremo, wow, che nel fashion, esatto, c'è stato tutto un, come dire, un ramo del fashion che si è dedicato a questo. Questa appunto sempre più conciate, qui di nuovo, no, la fotomodella, cioè se non avesse il pestone in faccia sarebbe la classica fotomodella, ma invece rappresentata così. Di nuovo, campagna antiviolenza, qui addirittura donna terrorizzata al telefono che guarda fuori con l'occhio massacrato, qui donna insanguinata, addirittura la bimba. Questa, tra l'altro, questa immagine è stata usata, ve la ricorderete, dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, è stata usata dai fascisti di Forza Nuova. Io mi ricordo che era tappezzata a Roma, fu una campagna, una delle campagne Roma, delle campagne razziste di Forza Nuova, che utilizzò proprio questa immagine come immagine di stupro. Addirittura abbiamo i quadri, la Monna Lisa che viene sempre messa di mezzo. Ecco, significativo che per esempio la foto dell'anno premiata da Times sia quella di questa giovane donna afghana vittima di un attacco con l'acido. E poi vedete addirittura, cioè anche in forma così più light, però il messaggio è sempre quello. Qui ecco è la parte più fashion, con le bambine, le donne adulte, e sempre appunto il livido e il sangue. Cioè capite come queste campagne rafforzino le donne, non ci si può pensare. Naturalmente in una cultura cattolica come la nostra non può mancare la crocefissione. Allora, questo è un telefono antiviolenza di Milano che ha usato questo, appunto, 25 novembre è del 2008, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Alcune immagini sono un po' datate, ma io non le ho riaggiornate perché sono così tutti gli anni, quindi potrei solo aggiungere alla galleria degli orrori nuove immagini, ma il concetto non è cambiato assolutamente. Addirittura nel mondo virtuale, in real life, c'è questo, real life si chiama, no? Second life, esatto, c'è di nuovo la stessa, il messaggio con tutte le donne dietro, anche qui giornata mondiale contro la violenza sulle donne in Second Life, eppure lì, pure nella dimensione virtuale non si è in grado di uscire. Questa è un'immagine, questo è un fotografo, non ricordo il suo nome, è Eric Ravelo, che ha fatto una serie di immagini di crocefissioni di bambine, per esempio vittime dei militari, eccetera. Io ne ho scelta una sola, che è questa bimba vittima del turismo sessuale pedofilo in Thailandia. E il messaggio però appunto è sempre il medesimo, quindi se non siamo massacrate siamo crocefisse, e se non siamo crocefisse massacrate siamo comunque irrimediabilmente sole. Ed è terrificante anche il senso di solitudine che trasmettono queste immagini. Queste donne sono sempre sole, isolate, l'obiettivo è sempre quello di far sì che si rivolgano a qualcuno istituzionale che intervenga al posto loro. Questa è un'immagine utilizzata in un articolo che parla di un centro dove gli uomini violenti i sex offenders e gli uomini violenti si ritrovano a fare una sorta di autocoscienza e a cercare di fare insieme un percorso per uscire dalla violenza. Ma l'immagine non è di un uomo, anche se stiamo parlando di un centro di uomini violenti, l'immagine è sempre quella di una donna. Anche nel momento in cui la donna non è sola, la solitudine è terrificante. Alle sue spalle, alle famose tre scimmiette, non vedo, non sento e non parlo. Qui ancora, sempre solitudine terrificante, qui addirittura l'Organizzazione Mondiale per la Salute, questa stop allo stupro, ed è, questo è, è un lavoro che ha fatto una ragazza, è stata fatta una sorta di concorso nelle scuole superiori alcuni anni fa, 3 anni fa più o meno, e questa è l'immagine che ha vinto il concorso, cioè, quindi questo per vedere come anche nelle giovani ragazze, perché erano le scuole superiori, quindi un adolescente pensa a una campagna antiviolenza, di nuovo mandando un messaggio di debolezza, di fragilità. Ah, poi qui abbiamo la parte con l'uomo, abbiamo visto da sola, ma vediamo con l'uomo. È interessante perché l'uomo non lo si vede mai in faccia, l'uomo è un po' il babau, è questo, è un'ombra, è un pugno, quindi quello che viene rappresentato dell'uomo è qualcosa che ci tocca delle paure ancestrali in qualche modo, no? Delle paure che abbiamo da piccole, del buio, di tutta una serie di cose su cui poi costruiscono la paura che ci viene trasmessa successivamente, il non uscire la sera perché è pericoloso, il non andare in determinati luoghi perché è pericoloso, quindi il mondo per noi si restringe sempre di più. Io dico peraltro sempre provocatoriamente, ma se è pericoloso per le donne uscire di sera perché ci sono in giro degli uomini che sono violenti, tenessero a casa gli uomini, non le donne, no? Non capisco perché siano le donne che debbano rimanere in casa. Ecco, vedete, qui l'uomo è riflesso nell'occhio della donna, qui si vede solo la gamba con il pugno, qui vediamo lo schiaffo, le mani, e sempre queste mani della donna che non reagiscono e sono mani... come dire, che mostrano debolezza, di nuovo il pugno, la cinghia, addirittura il pugno, qui si intravede l'uomo ed è sempre qui ancora il pugno, tira molto, qui addirittura lui se ne va e lei rimane per terra, qui l'ombra, qui vediamo i jeans dell'uomo, addirittura questa è una campagna di Amnesty. Io prima vi dicevo perché le mani della donna non sono magari insanguinate perché hanno tirato un bel cartone, no, però troviamo la mano maschile in compenso. Amnesty International sceglie questa immagine come campagna antiviolenza. Qui addirittura si prendono i bambini, qui è proprio il babau, lei che scappa nella cantina, un po' Hitchcock, no? Questo è incredibile, questo è un articolo che ho preso da un giornale e parla con l'accetta addirittura, qui siamo proprio a Dario Argento, violenza sulle donne, notate il titolo e l'immagine come sono assolutamente coerenti, no? Cioè, l'articolo ci dice che la regione Friuli Venezia Giulia sta approntando questi strumenti tecnici, no? Strumenti tecnici necessari per realizzare in modo concreto e tempestivo interventi a supporto delle donne vittime di violenza. Cioè, ma come fai a fare un discorso così e mandare e mettere un'immagine che è l'esatto suo opposto? Altro articolo, questo è preso dal Resto del Carlino, che proprio non eccelle, insomma, come giornale. Cioè, parla di una donna che reagisce a un maniaco che palpava le donne sull'autobus, ma l'immagine non ci fa vedere una reazione, fa vedere lei che cerca di scansarsi, no? Non è che gli prende la mano e gli spacca il polso, no. Adesso veniamo alla parte sugli stalker. Com'è rappresentato lo stalker? Ora, noi sappiamo benissimo che nella stragrande maggioranza dei casi gli stalker, così come gli uomini che agiscono violenza sulle donne, sono o conoscenti o soprattutto ex mariti, ex compagni, ex fidanzati. E appunto anche gli stalker, cioè, sono persone che ti conoscono, sanno dove lavori, sanno benissimo come è scandita la tua giornata, no? Infatti uno dei modi per sottrarsi agli stalker è cambiare gli orari, cambiare i percorsi, eccetera eccetera. Ma nella rappresentazione dello stalking invece non sembra proprio essere un uomo noto quello che viene rappresentato. Allora, qui vabbè, è la donna che appunto al telefono guarda fuori. Qui la cosa terrificante è che incominciano a far identificare noi con lo stalker. Notate, perché questa mano potrebbe essere la nostra mano. A guardare questa donna che cammina, potremmo essere noi alle sue spalle. Cioè c'è questo processo, per come è fatta l'inquadratura, anche qui è come se noi stessimo guardando lei che, spaventata, controlla che non siamo lì. Questa si proietta la nostra ombra, addirittura sempre questa come se fosse la nostra mano, no? Addirittura siamo al "ti sto guardando". Incomincia qui a vedersi qualcuno che segue la donna. L'unica cosa, direi, che va riconosciuta a queste immagini è che, a differenza delle precedenti, la donna qui si volta, quindi non fa quella cosa sbagliata di "faccio finta di niente e continuo a camminare", perché se sento qualcuno alle mie spalle mi volto e guardo chi è, gli faccio capire che l'ho visto. Cioè, nell'autodifesa, insomma, si imparano, ma anche di solito istintivamente si sanno tutte queste cose, no? E qui appunto, per fortuna, abbiamo queste donne. Qui inizia la sagra dell'uomo col cappuccio, questi black block, perché hanno tutti il cappuccio gli stalker, voi lo sapevate? Questa cosa, no, io mi sono chiesta, ma perché il cappuccio, no? Quando, cioè, sai benissimo che, anzi, lo stalker vuole che tu lo veda, perché il suo obiettivo è proprio quello di perseguitarti, di terrorizzarti, no? Con la sua presenza e quindi col suo viso. Quindi perché questo elemento del cappuccio, che come vedrete è ricorrente? Evidentemente perché, dopo aver costruito un immaginario terrificante sui black block, rappresentare lo stalker un po' come un black block evidentemente pensavano funzionasse. Perché sto tornando indietro? No, perché stavi andando indietro prima, capito? Ah, okay. Ok, eccoli qua, quindi tutti i nostri cappucci. Sì, qua è sempre lontano, il cappuccio. Cappuccio. Qui questa che... queste sempre che guardano fuori, disperate. Un altro col cappuccio. Qui si vede l'ombra, cappuccio. Questa, tra l'altro, notate com'è vestita, cioè messa tutta benino, pettinata proprio precisa, il capello è, ma deve essere un'immagine di disperazione. E qui sempre appunto questo tipo di cose. Va bene, queste le abbiamo viste. Allora, violenza e pubblicità. Questa è una rivista, che 12, che ha utilizzato Victim of Beauty, vittime della bellezza, ha usato questo doppio messaggio, no? L'essere vittima della bellezza e un discorso dal loro punto di vista contro la violenza. Sono veramente immagini alla Dario Argento, eh? E questa, vabbè, la famosa pubblicità di Dolce & Gabbana. Addirittura guardate questa pubblicità, cioè io la trovo terrificante, forse ancora di più di quella Dolce & Gabbana, perché in qualche modo banalizza la violenza maschile sulle donne. Cioè, stop alla violenza sulle stoviglie, no? Per pubblicizzare la Miele, che è una marca di lavastoviglie, come per dire, cioè, prenditi una lavastoviglie buona che non... E si usa lo slogan antiviolenza per pubblicizzare le lavastoviglie. Però questo per far vedere come appunto sia diventato talmente ricorrente questo discorso, che la pubblicità, naturalmente, che è intelligente, nel senso è furba, ha assorbito, perché capisce che va al punto direttamente. Vediamo adesso un po' di immagini di devittimizzazione, perché insomma, dopo tutta questa serie di immagini ci vuole qualcosa. Allora, vabbè, questa per esempio è un'immagine che è ripresa, quella di prima, non funziona, è inutile dire stop, fermiamo la violenza sulle donne, perché tu non puoi scrivere stop sulla mano di una voltata. Già qui c'è un passaggio, perlomeno c'è, però vedete con che fatica si cerca di mandare un messaggio devittimizzante, però ancora una volta non vediamo il volto della donna. Idem qua. Guardate questa invece com'è efficace, lo sguardo di questa donna com'è dritto, determinato, la mano è una mano che ferma, cioè lo sentite il fermo che lei dice. Quindi questa è un'immagine molto più efficace. Questa è un'immagine, è una serie di fotografie fatte da Isabel Lima, che è una fotografa brasiliana, contro la violenza maschile sulle donne e sulle bambine. Sono molto molto belle. Io ho scelto questa e quest'altra, che mi sembrano assai efficaci. Questa, per esempio, vedete, anche qui la donna guarda dritto negli occhi, cioè pensate alle immagini precedenti dove la scritta era sulla mano ma non vedevate la donna, o era voltata o si copriva. Qui invece lo sguardo dice molto, e dice addirittura più delle parole che sono scritte sulla mano. Questa io l'ho trovata simpatica, devo dire, questa significativa, insomma. E anche questa è una campagna abbastanza efficace, insomma, per quanto ancora una volta non si veda il volto dell'uomo, ma il messaggio che manda è, cioè serve coprirlo per dire che ha mille volti, quindi quello lì accanto potrebbe essere il volto che tu conosci bene. E questo è sul, queste sono due campagne sul consenso di Bolzano, fatta dalla città di Bolzano, che dice: la mia forza, sì, riuscite a leggere, la mia forza è nel rispetto, e quando lei dice no io dico ok, e ovviamente è bilingue, la mia forza è nel rispetto, quando io voglio e lei no, non lo facciamo. Anche questa è carina, e vabbè, questa è un'immagine della presa dal famoso corteo che si fece nel 2007, no? 2007, sì. Nel 2007, insomma, poi non si sono rivisti più cortei così belli. Anche questa immagine, ad esempio, è bella. Tenete tra l'altro conto che spesso le donne africane sono profondamente vittimizzate con la questione dell'infibulazione. E devo dire che rispetto ai discorsi che vengono fatti qua in Europa sull'infibulazione, quando io per ragioni di ricerca, per una ricerca sul colonialismo, sono stata in Eritrea, ho fatto 3 giorni di una lunga riunione con donne che eritree che lavoravano contro le mutilazioni genitali femminili. E intanto la cosa interessante che ho visto, e che qui da noi era impensabile proprio perché dietro il discorso che viene fatto in Europa sulle mutilazioni genitali c'è un discorso suprematista, guarda che selvaggioni cosa fanno alle donne, mentre invece le donne eritree inserivano il discorso delle mutilazioni genitali femminili nella violenza di genere, cioè in un quadro molto più ampio di gender based violence. E quello che facevano non era chiedere, come hanno fatto invece con le Nazioni Unite, leggi agli stati contro queste pratiche, ma andavano di villaggio in villaggio a parlare con i capi villaggio per fare in modo che questa pratica che ha una storia di secoli, si interrompesse, ma soprattutto cercavano di trovare un'alternativa economica alle donne che praticano l'infibulazione, perché le donne che sono donne spesso anziane, che vivono di quello, e quindi se non gli si dà un'alternativa economica, le si lascia nella povertà, non si rompe questo meccanismo. Per cui io lì ho avuto proprio la dimensione di quanta ideologia e quanto suprematismo ci sia in Europa quando si parla di questo tipo di pratiche. E per questo trovo molto bella questa immagine, perché vediamo due ragazzine sorridenti e non la classica immagine della bimba che piange disperata perché la stanno mutilando. Tra l'altro, su questa questione delle mutilazioni genitali, io veramente sono anni che dico: ma quali sono i dati concreti? Perché si continua a dire nel mondo ci sono 120 milioni di donne che hanno subito, cioè questo dato lo si ripete da 20 anni. Quali sono i dati reali? Perché non ci dite cosa stanno facendo concretamente le donne in quei posti? Quante donne anche che emigrano dai loro paesi, emigrano anche per portarsi via le figlie piccole, perché spesso queste pratiche sono portate avanti dalle nonne, sono le nonne che vogliono che la nipotina venga infibulata, e quindi le madri spesso portano via le figlie anche per quello. Quindi di tutte queste cose non se ne parla, ma queste sono reali strategie di resistenza. Così come la stessa infibulazione nasce come pratica gestita dalle donne come strategia di resistenza contro gli stupri, perché le bimbe, le ragazzine nei villaggi vanno al pozzo e devono fare una lunga strada, per cui è in qualche modo un po' quella che era la cintura di castità qua da noi, no? Cioè non capire tutto questo e dare un giudizio su guarda che violenza, arriviamo noi, no? Le emancipatone europee a risolvere il problema sovrapponendoci a delle cose che e denigrando anche, disconoscendo il lavoro che le donne fanno lì, io trovo che sia veramente terribile e violento. Scusate se tengo questo comizio, ma perché è veramente non vedo passi avanti. Ma c'è anche un'altra cosa rispetto a questa, per esempio ha fatto un particolare una campagna la Francia, no, contro questa cosa, e la cattiva coscienza dell'Occidente, che quando nel Burkina Faso Sankara aveva posto questo problema, aveva dato in mano alle donne la gestione nel paese di una la gestione contro la violenza delle donne, ne aveva fatto un la Francia è stata una delle maggiori artefici del colpo di Stato, l'hanno ammazzato, hanno assolutamente chiuso quel capitolo, però adesso fanno la campagna contro la violenza, contro l'infibulazione e le mutilazioni in Burkina Faso. Cioè, la trovo allucinante questa cosa, proprio cioè, come cattiva coscienza dell'Occidente. Così, esatto, ma così come noi occidentali che andiamo a fare le guerre dappertutto sappiamo bene che le situazioni di guerra comportano un rinchiudersi di più nella dimensione tribale, poi perché è la famiglia allargata, e quindi in qualche modo dà spazio a questo tipo di pratiche. Se si facessero meno guerre, si vendessero meno armi, o se non si facessero più le guerre e non si vendessero più le armi, ci sarebbe la possibilità di cambiare, mentre invece la reazione ovviamente è una reazione di tipo conservativo nel tradizionalismo, e naturalmente quindi si moltiplicano. Io ho letto tanti lavori fatti ad esempio da donne curde, no? Sia dalle compagne delle YPG che da altre, che sottolineano come la guerra in Siria per esempio abbia riportato in vita molte di queste pratiche tradizionali, dai matrimoni forzati a, no? Cioè tutto il lavoro che le donne stavano facendo, lo sappiamo, in una situazione di guerra le prime a pagarla sono le donne. Le condizioni delle donne sono le prime a peggiorare, no? E in più, appunto, c'è il rischio, aumentano i rischi di stupro da parte dell'esercito invasore, o comunque anche poi da parte dei maschi della comunità, che dopo aver visto gli stupri li riproducono a loro volta. Ci sono dei dati, no, che le guerre lasciano come strascico anche un aumento di stupri da parte poi dei locali, dei civili. Per cui, ecco, quindi, cioè, capire che implicazioni ha con la guerra tutto questo sarebbe estremamente importante, no? Anziché pensare di andare a fare quelle che fanno emancipare le altre, quando poi non siamo capaci di liberarci noi qui. Vabbè, questo lo riporto sempre, mi piace molto, appunto, è il manifesto che si era fatto proprio per il corteo del 2007, dove intanto ci sono donne non soltanto bianche, che ogni tanto ci vuole, perché si parla tanto di razzismo istituzionale, però poi il razzismo anche nei nostri manifesti e nei nostri volantini è assai ricorrente, e poi perché appunto trovavo molto bello lo slogan che la violenza maschile contro le donne comincia in casa e non ha confini, contro il tentativo che c'era stato quell'anno di far passare il pacchetto sicurezza col plauso delle donne, perché dicevano che militarizzare le strade dava sicurezza alle donne. E qui anche questo direi che è efficace. Un'ultimissima cosa, come mai non c'è, scusate, volevo farvi vedere un'altra immagine, ah, è qua. Questa è un'azione che hanno fatto delle compagne in Spagna, Sangre Menstrual, per rompere l'interdetto che c'è sulle mestruazioni, no? E quindi vedete che si sono dipinte di rosso queste calzemaglie bianche, e andavano distribuendo questo volantino, questo manifesto per la visibilità delle mestruazioni. Io l'ho trovato molto interessante perché in quelle che sono le rappresentazioni dominanti del corpo della donna, il corpo della donna è sempre un corpo, l'abbiamo visto, fatto a pezzi, eccetera, non nelle campagne antiviolenza, in generale nelle pubblicità, eccetera, è sempre un corpo, come dire, sterilizzato in qualche modo, è depilato, non ha mestruazioni, non ha un apparato genitale interno come se i nostri esterno come se i nostri genitali fossero solo interni, e quindi in questo modo le donne sono ridotte a una sorta di bambole gonfiabili, perché poi appunto senza peli, senza mestruazioni, senza vulva, eccetera, e quindi rendere, come dire, visibile le mestruazioni, che sono l'interdetto di tutti i monoteismi, no? Appunto donne messe in disparte quando avevano le mestruazioni, lo troviamo dalla Bibbia in poi, insomma, l'interdetto mestruale. Ecco, mi è sembrato una bella azione, questa veramente un'azione post-vittimista. Non so se riuscite a leggere il testo, è interessante per quelli che ci hanno addottrinato all'usa e getta, per tutti quelli che speravano che rifiutassimo indefinitivamente il nostro proprio corpo. Questo è il succo delle nostre viscere dal quale non scappo, una macchia senza limiti, un rispremere che non potete fermare. Il mio corpo si disperde, il mio pensiero anche. Con queste mutande macchiate di sangue come bandiera contro la dottrina del potere, contro le strutture stabilite, vi faccio sapere che nel mio corpo decido io, e così ogni mese mi libero dell'endometrio, riaffermandomi nella mia decisione di controllare le capacità di riproduzione del mio corpo. Nella mia carne comando io. Ci riusciste a suo tempo, però ormai non mi vergogno più di macchiarmi, e incluso decido volontariamente, scusate, una traduzione un po' del cazzo, l'ho trovato così in internet, decido volontariamente di farlo esibendolo pubblicamente. Mi macchio e non mi fa schifo, mi macchio e non mi faccio schifo, non rifiuto il mio corpo, questa è la mia natura. Questo mi macchio e non mi fa schifo, io sono anni che rimango perplessa ogni volta che vedo una pubblicità degli assorbenti, ma perché c'è il liquido blu? Perché si pubblicizzano gli assorbenti col liquido blu? Perché? Ci sono anche donne che volano, eh? Sì, donne che volano, cioè. Però questa cosa è incredibile, cioè, per forza poi ancora oggi le ragazze parlano delle proprie mestruazioni come se fossero altro da sé, ancora vengono chiamate le mie cose come se fossero l'innominabile. Oppure quei giorni quali? Anche il marchese. Il marchese, beh, certo, poi c'è il marchese proprio. Ed effettivamente qui lo slogan, uno slogan dominante per gli assorbenti, quindi se rimane asciutta è libera, cioè la libertà viene dal non accorgersi della esatto. C'è questo libro bellissimo, un libro che è un fumetto, è uscito di recente di un'autrice, mi pare svedese, non ricordo il nome di lei perché c'è un nome svedese complicato, però il libro si intitola Il frutto della conoscenza ed è tutto sulla vulva e la storia di come nei secoli sia stata repressa la sessualità delle donne, no? Ma la vulva come parte esterna è come sia stata negata, come ci siano impazziti i medici per fare le clitoridectomie, impedire, perché le facevano anche in Europa, appunto si parla di mutilazioni genitali in Africa, non si dice che in Europa era una pratica tra l'altro utilizzatissima ancora nel Novecento, per cui e come appunto facessero le clitoridectomie piuttosto che come cercassero di dissuadere con violenza le ragazzine dalla masturbazione, eccetera. E c'è tutta questa parte sulle mestruazioni che ci fa vedere come in realtà, per esempio, nella Grecia antica fosse normale perdere sangue sia per gli uomini che per le donne, no? Non c'era questo interdetto mestruale, gli uomini perdevano sangue dall'ano perché spesso avevano le emorroidi e comunque perché ricambiare sangue è una cosa naturale, si sa bene che spesso il sangue dal naso anche è un sostituto della mestruazione, no? E serve per Freud, infatti, vabbè, lui tirava di coca quindi perdeva sangue dal naso, però le chiamava nelle lettere al suo amante Afflis, le chiamava le mie mestruazioni, ma perché effettivamente è un modo di ricambiare il sangue, cioè è il corpo che si rigenera, no? Ed è veramente bello quel libro perché è fatto a fumetti ma è fatto benissimo con una ricerca storica importantissima e appunto è sulla parte dell'interdetto mestruale, è bellissima, incredibile. E neanche sono malata quando ho le mestruazioni, non sto male, esattamente al contrario, mi riciclo in ogni periodo. Non è una maledizione né un castigo divino, è un'attività ormonale. Siamo stufe dei pregiudizi mestruali, dell'invisibilità, visibilizzare le mestruazioni per visibilizzare il corpo come spazio politico. Ci siamo stufate di chiedere assorbenti tra sussurri e sguardi complici. Con questo manifesto metto un punto finale alla tirannia in cui mi avete educato. Non ci sarà più permissività da parte mia, le mestruazioni sono mie. Io lo trovo molto bello e concludo con questo, il laboratorio forte vittimista, quindi dando un elemento di rottura e di forza. Allora, quello che io proporrei adesso, se ci rimane un pochino di tempo, dopo questa serie di immagini, eccetera, è che facciate un 2 o 3 gruppi e proviate in un quarto d'ora, 20 minuti a pensare una campagna antiviolenza post-vittimista. L'unica cosa che vi chiedo è che sia realistica, però, nel senso che ho visto in altre situazioni in cui ho fatto il laboratorio che poi mancabilmente fanno quella che spara l'uomo, ho capito, ma siccome non tutte siamo dotate, no? Cioè che sia realistica, perché non c'è bisogno di delegare a un'arma la nostra difesa e quindi ecco, provare a provare necessario. Quando c'è vo, c'è vo, ok, però. Ma sono un stupratore che non è che si può fare benissimo. Però non tutte hanno un'arma, io non tutte hanno un'arma, nel senso. Il discorso è allora può essere anche una sedia che prende gli spacchi, nel senso che ci possono essere. Cioè, di non usare armi in questo senso, cioè di non farla irreale, ma di provare a pensarla in termini post, perché lì è il passaggio, no? Perché se la faccio irreale è facile, invece provare a pensare in termini post-vittimisti un percorso praticabile. Abbiamo un 20 minuti, mezz'ora, se in un quarto d'ora, 20 minuti riuscite in due o tre gruppi a farle, poi le illustrate, io sono contenta perché significa che il laboratorio ha avuto un'efficacia. Io una ne avrei già tutte. No, che non ho fatta io però, Allora riprendiamo le fila del discorso e cominciamo dal primo gruppo, dai. Allora, noi abbiamo pensato tutte e quattro di fare una donna in piedi, dritta, vestita molto femminile, con uno sguardo determinato di fronte alla persona che gli dà fastidio, con un braccio teso per dirgli di tenere la distanza. O comunque con un bel no anche proprio scritto, no? Questo sguardo molto deciso, perché principalmente l'idea era dello sguardo con un no chiaro, senza troppe parole, proprio no. E poi volevamo dire, però io ecco questa cosa della mano dritta, così magari che da fermare non riesco a disegnare. Questa era un po' la nostra decisione molto minimale. Quindi questo elemento corpo intero. Corpo intero, sguardo di... Cioè la cosa principale è proprio questa fermezza della donna che lo dice sia con lo sguardo che anche due semplici parole, che è no, perché pare che questo no della donna sia sempre una cosa che non, una parola che non può mai dire, no? Invece secondo me domani facciamo apposito laboratorio su questo. Ecco, no, io sono bravissima a dire no. E basta, vai. Voilà, vai secondo. Ma perché? Allora, noi abbiamo avuto tre idee. La prima era il leitmotiv era "e mo provaci", dove ci sono due scenette. La prima due possibilità, sì. La prima prevede una massa di donne di diverse estrazioni sociali, professioni, magari etnie, eccetera eccetera, e sotto appunto scritto grande "e mo provaci". E la seconda era sempre con il primo piano di Lady Cocca con Lady Cocca con la racchetta da badminton minacciosa, che fa appunto con sottoscritto "e mo provaci". E questa era la nostra prima idea. La seconda era questa qui, sono tre piani sequenza, diciamo. La prima appunto prevede l'uomo che rincorre la donna presa all'inizio alla sprovvista, scappa, cerca di girare, nella seconda scenetta c'è la donna che gira l'angolo e inizia a fischiare. E la terza, la donna ha fischiato, quindi accorrono tutte le amiche dell'aggredita, che appunto a loro volta invece arrivano tutte agguerrite così e rincorrono l'uomo che scappa. Bene. Ok. E l'ultima idea invece era, ci è venuta un po' così, sugli stalker in particolare, lo stalker dalla finestra che fissa questa compagnia di donne che sono sedute, stanno bevendo, fumando, che nemmeno lo guardano, e sopra c'è scritto "chi te se incula". È bellissimo. Bellissimo. Sì, comunque la Ticocca era dentro, no? Vai, sì, no. Il nostro pubblicitario. Noi abbiamo pensato a dei manifesti. Allora, tutti presi più o meno da esperienze reali, tra l'altro. Allora, il primo è un'immagine di un bus molto affollato, come sempre sono, con uno stronzo che cerca di mettere la mano sul culo a una. Lei che prende la mano, la tira su e urla: di chi è questa mano? E lo slogan è: non ti vergognare, umilialo. Questa cosa tra l'altro è successa veramente, ce la raccontava una compagna d'autodifesa anni fa. Infatti, sono tutte tratte da esperienze. Sì, sì, sì. Poi lo stesso concetto, diciamo, sulla necessità di umiliare invece che di vergognarsi, è un uomo, uno stupratore che si, adesso non abbiamo proprio pensato a come rendere visivamente il fatto che sia un aggressore, accerchiato da donne, che viene umiliato, picchiato, eccetera, e lo slogan in inglese: don't panic, organize. Non avere paura, organizzati. Poi lui invece, questa sulla violenza domestica, diciamo, lui malmenato a terra, cioè per terra, fuori dall'uscio di casa, e lei in primo piano che sta per sbattere sorridente la porta, e lo slogan è: un no è per sempre. Bellissimo. Poi l'altro è: una donna va a denunciare una violenza, quindi c'è una scena di un commissariato con una donna malmenata, una guardia che le punta un dito minaccioso addosso e un faro come se la stesse interrogando, e lo slogan è: non denunciare, agisci. Stesso concetto in un'aula di tribunale, quindi sempre con i parrucconi che la stanno imputando praticamente a lei, e lo slogan è: in ogni processo per stupro il vero imputato è la donna, evita le aule di tribunale, agisci. Poi un altro è: un uomo nell'ombra, questa è proprio autobiografica, un uomo nell'ombra che si tocca mentre due donne stanno parlando, e una si alza, lo sposta e dice: levati per favore, e lo slogan: non importa cosa dici, tira fuori la voce. Poi un altro è un'immagine collettiva di donne molto determinate che camminano con dei San Pietrini in mano, e lo slogan è: le donne sono come San Pietrini, a furia di calpestarli ne prendi uno in faccia. E poi gli ultimi due: un aggressore per strada o in casa, e lei che impugna un mazzo di chiavi, mettendo ogni chiave, diciamo, tra le dita, come a fare un tirapugni, e lo slogan è: se vuoi, basta un mazzo di chiavi. E poi l'ultima è una donna che reagisce a una violenza, è il primo piano del pugno della donna e del suo sguardo, l'uomo è grande e grosso, e lo slogan è: più della sua forza conta la tua rabbia. Belli potenti, realizziamoli poi. E questo infatti ce l'ho avuto in mente, realizziamoli! Sì, sarebbero proprio per mandare dei messaggi differenti. Anzi, il fogliettino vostro, dateci tutto! Che realizzate? No, questa idea di cocca, cioè io voglio fare le magliette, adesso faremo la maglietta. Le magliette assolutamente! Quella di cocca la faremo. Serve un grafico che faccia la di cocca. Allora, grazie tantissime a Nicoletta Poidimani che ci ha fatto questo pomeriggio fantastico, devo dire la verità. E quindi penso che si potrà andare tutti quanti a cena. Sì, io farei solo quest'ultimissima osservazione che mi sembra la cosa più potente di questo percorso, che nel rompere col meccanismo vittimizzante non solo acquisiamo forza e potenza, ma ci divertiamo pure, perché sì, infatti si è anche riso tanto. Questo mi sembra veramente, cioè, come torniamo a noi stesse in qualche modo, ci certo. Ricentriamo. Diciamo che forse l'ultima cosa che volevo dire a proposito di questo incontro, eccetera, che c'è un bellissimo scritto tuo che noi abbiamo messo sul blog di qualche anno fa, che praticamente è illuminante e ci piacerebbe che insomma tutte e tutti lo leggessero, e sta negli atti dell'incontro contro la violenza sulle donne del 2012 volevo dire il titolo perché è veramente ben fatto, hai fatto uno scritto che è esaustivo proprio e si intitola Un passo avanti dalla parte delle donne che reagiscono alla violenza, e ci farebbe piacere che tutti lo leggessero perché è veramente ben fatto. Grazie a voi.